le spalle curve, la pelle scura, scura come un bastoncino di liquirizia nera nelle mani di un bambino. Il sergente minore si svegliava per primo e per primo si gettava nel fiume e restava sott'acqua quanto il capitano. Il 31 di maggio suo figlio maggiore passò alle superiori e sua moglie gli scrisse: sei il mio pellicano. Era un giorno d'andare fuori, si celebravano gli eroi e quel giorno lui ammazzò il suo capitano. Oh capitano, sei morto in guerra col fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai. Un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai. Lo sai, ci mancherai. Lo sai, lo sai, ci mancherai. La guerra è vita, il fucile è amore, è una cosa da imparare per sentirsi nei coglioni un seme militare. Il sergente minore, fronte alto e dovere, imparava dal suo capitano. Un eroe non muore mai davanti al suo camino. Capitano sei forte, capitano sei grande, ma c'è un segno nella mano. Il sergente minore comanda il tuo destino. E la storia non sbaglia, senza morte violenta non diventa eroe nessuno. Lo pensava quando sparò al suo capitano. Oh capitano, sei morto in guerra col fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai. Un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai. Lo sai, ci mancherai. Lo sai, ci mancherai. Capitano, sei sempre in guerra col fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai. Un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai. Lo sai, ci mancherai. Lo sai, ci mancherai.